devi portare quella che entra. Vieni qua e guardiamo se ne ho io di quelle, così te le prendi e riempi tutti gli slot se ce le ho. E dove le recuperate queste schede video? Ma queste RAM? Tu non ti preoccupare, c'è una mazzolata di dischi per portatili, di quelli che te li puoi fare tipo disco esterno, mi. Li compri la custodia e ti fa laggiù un casotto, infatti lo dico a Luca se ne vuole, io non me ne faccio nulla. Allora, ieri ho guardato su eBay i prezzi degli assemblati, come mi aveva detto Gianfranco, in effetti ci sono dei computer tipo uno 400 venduti, 200 venduti, 160 venduti, lo sai? Ho notato che ti danno processori che vanno tipo Intel i3, i5, varie potenze, RAM da 8 giga, hard disk da un terabyte. Naturalmente la scheda video ho notato che è integrata nella scheda, cioè tu la puoi aggiungere se vuoi, ma è integrata perché dice che per uso comune, per navigare, non c'è assolutamente bisogno di schede video spinte. No, poi la qualità è ottima quella di quelle integrate che ci sono adesso, è solo se lo usi per giocare che serve la scheda video, non per altro, perché i giochi usano invece della memoria, il processore è la memoria della scheda video, che è già DDR5, la memoria della scheda video, figurati, c'hanno 2 giga di RAM e poi è DDR5, sono potentissime, infatti costano una barca di soldi le schede video di adesso. Cioè se la metti esterna è un mostro proprio. Sai, quando guardi le mappe, comunque integrata va bene già, se guardi le mappe, se guardi YouTube, i video, va già bene quella integrata, così è. Aspetta, 2,99 ce n'era uno interessante, interessante, solo che ha ancora le... ho notato che ha le prese USB 2.0, non 3.0. Perché per avere quelle 3.0 devi avere un i3, un G, vedi, al posto dell'i3 che è uguale come processore si può dire perché è 2 core, dual core più 4 thread, quindi sono 6 processori. Il G, aspetta, G4560, e con la metà del prezzo ottenisci. Hanno la stessa scheda madre dell'i3 perché sono cabili. Eia, 8 giga di RAM, cioè, sembrava una bella... Ah, e ti danno anche Windows 10 già installato e il disco di installazione. E Windows 10 Pro, quello che ti danno addirittura. Cosa cambia dal 10 normale? È più potente, come quello che ho io. E poi ti danno la licenza, praticamente è il tuo, quel Windows, capito? Ehi, era interessante infatti, solo che sai, come dico io ancora riesco a navigare, da quando ho messo quelle, sai che browser ho messo, non andavano bene tutti quelli Google, Chrome, tutti me li hanno bloccati, tutti, sia Firefox, Opera, quell'altro come si chiama, Chrome, tutti hanno bloccato il supporto per XP32, per Windows XP, capito? Certi non funzionano proprio, non li puoi installare nemmeno. Allora ho scaricato questo browser leggerissimo che si chiama Chameleon, mi apre tutto, mappe, YouTube, immagini, niente, nessun problema. Come antivirus gratuito ho messo questo leggerissimo 360 Total Security. Che cappa, figura. Cioè io dico, alla fine, a parte che è molto più veloce di Firefox questo browser che ho messo, Firefox era estremamente lento, era un pianto. riesco ancora a navigare, non aprire pagina, vedere video YouTube. A che pro prendere Windows 10, un computer nuovo, quando non riuscirò proprio né a navigare né a fare nulla? Allora posso prenderlo, e se no mi trovo due computer in più con XP, cosa me ne devo fare? Attaccarmeli a culo? Funzionano? Per il momento. Un'alternata leggera, eh? E adesso ce l'ho. Sì, sto uscendo anche a scariche. Adesso bene va. Ehi, cos'era? E sto toccando lo spinotto del... del microfono. Evidentemente c'è qualche filo mezzo messo male. Mi sta toccando. Hai visto? Oggi non è entrato nessuno, sono le 7 quasi, sì, quasi le 7, 4 minuti alle 7, non è entrato nessuno, c'era un casino da Ocean, poi sono andato da Media World sopra, hanno cambiato tutto, tutta la disposizione hanno cambiato, non riuscivo a trovare più quello che mi serviva, cavi audio video, cavetteria audio video. Adesso posso di nuovo con quel computer fisso traslare da tra acquisire video dalle telecamere, quelle che ho io, e non è poco. E infatti mi devi far vedere come fai, perché io non ci ho mai giocato con queste cose, ho fatto altre cose, ma quella roba lì no. Naturalmente conta che io sto passando tramite prese VCA, quindi è un video analogico traslato in digitale, così così, però è già di lusso. Quando metto video su YouTube fatti con le telecamere si vede bene, abbastanza bene. Certo, non è Full HD, ma già me ne affughiamo del Full HD. Mi pare che lo puoi visionare fino a 480p mi pare, una cosa del genere, o di più, non mi ricordo. Quelle telecamere là le devo sfruttare di più, però porca miseria, le batterie se sono esaurite me le compro nuove, oppure le posso alimentare anche dalla macchina, non c'è un problema se devo fare panoramica del mare, quelle cose lì. Certo, se fosse già un formato nativo digitale sarebbe meglio, come le videocamere di adesso che registrano direttamente in digitale, tutto un altro mondo. Poi sono Full HD quelle sono belle. Lo so, tanto se ne ha comprato una della Panasonic, quest'amico mio, che funziona con la scheda SD praticamente come una macchina fotografica, paurosa, tu la devi vedere. Ho visto vari prezzi Media World, so che cioè inutile avere anche prestazioni mirabolanti, ce n'è da 300 euro, 399, ce ne sono anche da 199, 179, ce n'era una Panasonic che aveva lo zoom ottico 50x, non so se mi spiego, a voglia si può riprendere anche la luna in primo piano, zoom ottico. Bellina, è che, vabbè, no. Adesso Full HD passa pure di moda, faranno le videocamere 4K, e quindi, e poi ci vuole tutto Full HD, è inutile, ci vuole il computer con il video Full HD, il televisore Full HD, alla fine tutto deve essere commisurato, io soldi non ne ho. Non basta più il Full HD, ci vuole il 4K. Sì, ancora indietro, Marco, uiui. Pensa che mamma c'ha il televisore Full HD, il mio è HD Ready, 1366 per fruscia, non è nemmeno Full HD. Sì, ma tanto mi Natali. Canali trasmettono tutti in 4K i canali TV, non credo ancora. Ancora no, ma quando cambiano modo di emissione sì, in 4K, e anche anche il digitale terrestre e si chiamerà TVB2, capito? Ci sono già i televisori TVB2, capito? Col nuovo sistema. Ma è meglio far abbassare i prezzi ancora. Noi quando non vediamo più niente, allora cambiamo. Quando non vediamo più nulla, cambiamo, capito? Come il computer, quando proprio non riesco più a navigare, allora lo cambio. Tanto io cose spinte non ne faccio al computer, non gioco, non faccio grafica spinta, né roba 3D, no? Bene. Caspita, comunque mi sono piaciuti quelli assemblati, solo che se poi hai un problema e ti serve assistenza, chi te la fa l'assistenza? Quello è dall'altra parte d'Italia. Se io invece vado in via Bucari, dove andavo sempre io, se c'è un problema, se voglio aggiungere qualcosa, se voglio modificare qualcosa, mi fanno tutto loro, capito? Ecco perché io preferisco prenderlo in sede, perché c'ho l'assistenza lì. Qualsiasi cosa gli chieda me la dicono, non ho capito, Natali. Anche se tu lo prendi di là, te la devono fare l'assistenza. Tu vuoi una scheda video e te la puoi farti a fare da loro. Vai là, gli porti il computer, ti fanno pagare quello che c'è da pagare e te la devono fare. C'è poco da fare. Ehi, no, ma preferisco pigliarlo già assemblato da loro, in via Bucari. Se e quando lo prenderò, perché prima o poi, magari mi durano altri 5 anni, amico, questo computer, anche 10 anni. Magari ci sarà Windows 10, 11, 12, che ne so io. Va bene. Bene. C'erano di tutti i prezzi di portatili, anche prezzi folli, 2500 euro, se non di più, dai 2,99 mi pare, ce n'erano fino ai 2500 euro, 10 volte tanto, cazzo! Infatti, se tu te lo cambi e te lo fai assemblare, invece che assemblartelo tu, da quelli di via Bucari, preparati 3000 euro. No, ma io non voglio un computer da 3000 euro, quelli che costano così sono computer spinti, sono computer top di gamma, a me serve un computer medio, di classe media, che sia aggiornabile, che si possa aggiungere RAM, che si possa aggiungere, più che altro RAM, il processore già si prende un po' più spinto, la scheda video lo stesso. È una classe media, scusa, quelli assemblati là, comprati su Intel, costa 300 euro intorno, me ne faccio fare uno da 300 euro in via Bucari per dire se dovessi già comprarlo, è la stessa cosa, anziché comprarlo da Intel te lo faccio qua a Sassari. Non ce n'è qua a Sassari da 300 euro, come lo vuoi tu? Sto dicendo, quel processore che ti stavo dicendo io è come un i3 uguale, perché l'i3 fa la stessa cosa che fa quel G4560 e ti sto dicendo che è una belva, lui ha la stessa scheda dell'i3, devi usare una scheda madre per l'i3 perché sono processori cabilichi, no? Quindi ti è stato al bilicchio, ti vuoi mettere l'i7 o l'i5, vai e ce lo metti, tanto la RAM è sempre DDR4, non si scappa. DDR4, così è? E allora, quelli sì che si possono aggiornare, 3250 bazooka come scheda madre, e ci puoi mettere tutti i processori che ti pare ti piace, la scheda RAM, la RAM non la devi cambiare, la puoi solo aggiungere, perché DDR4 in questo momento costa una barca di soldi, capito? Là, però già si possono aggiornare, te lo puoi fare, forse ti piace quel processo, ti metti il 3 originale e fa la stessa cosa per del 4560, a questo punto converrebbe prendere l'i5 che è già un quad core. Sì, l'i5 è bello, ho visto già quei computer di classe media, ma un costo medio 6,99, così 5,99, avevano quelli portatili da Media World, avevano già di 5. Ma si tratta già di roba spinta che non te ne fai un cazzo, io ti sto dicendo, se tu ti prendi un 4560 e una scheda, quanto spendi? 100 euro in tutto, e te l'assembli tu. Solo la RAM ti devi comprare, ma la RAM ti costa 100 euro, 8 giga, ne prendi due pacchette da 4, così ti fai il dual channel, ed è un signor computer. Cos'è il dual channel? Spiega. La RAM raffreddano meglio, tu se ne metti una bacchetta solo da 8 giga, non è come averne due da 4, sempre di DDR4 si parla, raffreddano meglio, capito? E si va in dual channel, praticamente se la scheda ha 4 slot, metti una sì o una no, e fai il dual channel. Così è. Bene, no, ma io non ne farei, io non ne sembro, io non ne voglio sapere niente a zuffarmi con i driver, lo deve fare il tecnico. No, ma quello ve dico io, perché su eBay allora secondo te lo trovi a 300 euro con quelle caratteristiche e qui in via Bucari lo paghi di più, per quale motivo? Con le stesse caratteristiche, me lo spieghi? Perché sono più cari. Certo, loro ci devono guadagnare, ci devono sgobbare, invece in continente sono aziende grandi che ne hanno da buttare. Ma non l'hai sentito a coso, a Gianfranco, che ne hanno buttato roba di 50 di computer? Buttati proprio, perché non sapevano a chi darli. E magari c'erano computer buoni che, guarda, di marca, senza essere assemblati. Di un compact, non è assemblato. E io sto cercando un case, e voi io mi ricondiziono questo case, compro solo la scheda madre, tutto l'altro ce l'ho. Però mi devo buttare un case per assemblare tutto, perché questo non si può aprire dall'altra parte, per fare il cable management. Perché adesso gli alimentatori sono sotto, non sono sopra. Eia. Comunque, come schede, allora, di quelli di eBay, come schede madri ho visto Intel, Asus, ASRock, roba del genere. MSI, perché le ASRock vogliono aggiornate ed è un casino, con quei processori Intel che stavamo parlando. Non riesci a aggiornare il BIOS. E vedi che ci sono troppe cose da sapere, quindi io per non rompermi le palle vado al laboratorio, poi via Bucari me lo faccio fare su misura, cioè io non mi devo rompere le palle, no? Cioè compro magari roba da eBay, poi quello non va bene, quello è da aggiornare, cioè cerca di capire, no? Ma se te lo sto dicendo io cosa comprare, la scheda madre lo sai già, B250 Bazooka. Eh sì, appunto, fai la scheda madre e il processore. E c'hai un processore che può fare l'hyper-threading, cioè quando non ha bisogno piglia core, capito? Se no va in dual core. C'ha dual core e 4 thread, quindi sono 6 processori praticamente. Ehi, a tutte queste cose non le so, vedi? Sono rimasto indietro, non esistevano dual core, quad core. Mamma mia. E quindi tu dici, questi processori AMD non sono al pari degli Intel? La HBG. Meglio lasciar perdere. Hanno un sacco di core, però da voi dei conti non fanno quello che fa un i3, un i5, un i7, capito? Non ci arrivano a fare quello lì, che fa questo. E quei 5 li usano per giocare con schede video mostruose, cosa cazzo te ne fai? Per per quello ti ho detto pigliati 45-60, almeno sei sicuro che è come un i3, però paghi la metà, perché solo il processore ti costa più di 100 euro, l'i3, figurati l'i5 e l'i7 quanto costa, basta poi esci sul browser e metti stretto e guardi quanto costa un i7, un i5 e un i3 e quanto costa il G4560, che è come che hai un i3, però lo paghi la metà. Guarda, ti avrei voluto far vedere una configurazione, solo che è un casino, no, casino è nata lì. E non ne capisco niente di quelle cose che scrivono loro. Insomma. Comunque sono vari venditori, tutti hanno il feedback al 100%, tutti. Per dire, io basta che compri quello monitor, mouse ce l'ho già, tastiera ce l'ho già, è fatto un Windows 10. Figurati, e sei già avanzato, ma ce ne sono da 165 quad core, che mi ha detto quell'amico mio che mi ha dato le RAM e tutto, te lo faccio arrivare io, 165, già Windows 10 interesso, basta che tu formatti il disco e te lo metti in italiano e hai risolto, no? Molto ci vuole. Mai formattato un disco né reinstallato. Ehi, ma io già lo so fare però. Anche a mia moglie non gliel'ho piazzato io tutto qua. Aspetta un attimo che cerco un collegamento, Allora, vediamo. E poi installati, come cazzo si chiama? Come si chiama quello per parlare con il segreto? Non me lo ricordo. Skype. E così ci vediamo pure, se c'è qualche telecamera. Guarda che io Skype ce l'ho già nel computer fisso, è anche portatile, c'è già. Aspetta un attimo, che guardo una cosa. Ecco, vediamo come sono registrati tutti i cerchi e mi arriva la situazione. Ecco, tu cerca Natalino Melis e c'è una rosa rossa, arancione, dai. Ehi, più tardi, dai. Non mi si apre qua il collegamento, come mai? Preferiti. Il collegamento di cosa? Ehi, qui con lo smartphone, volevo dirti con la configurazione a vedere se ne sai qualcosa. Ah, su WhatsApp. Vai su Skype, che così me lo dici su Skype, è uguale se non si apre il collegamento. No, al baracchino te lo devo dire, che WhatsApp, non ci complichiamo la vita, dai, grazie a Dio abbiamo il baracchino, lasciamolo perdere il computer. Mai mischiare baracchino e computer. Lo dici tu. Vabbè, dai, dimmi. Allora, aspetta, descrizione dell'oggetto. Oh, cazzo. Scusate la parolaccia. Allora, questo cosa è? Una torre di aspetto elegante. 2,99, vediamo. Allora, vedo le prime cose, processore Intel Core, allora Intel i5 6,50, 3,20 giga, poi memoria RAM DDR3 8 giga, hard disk 1 terabyte, poi masterizzatore DVD Windows 10 Pro, queste le cose base. Ma ti hanno fregato sulla scheda madre, nel senso che la scheda madre deve avere il DDR4, capito, per rendere quel processore, che è un quad core. Ti hanno messo una scheda vecchia DDR3. Allora, vediamo, è un po' caotico da consultare. No, di scheda la madre non ne parla però. Dici a vedere. Dici a vedere se ne parla, eccola qua. Un attimo. Eia. Perché quel processore usa le memorie DDR4. Ottima sapessi che usa anche le DR3. Allora, vabbè, alimentatore 500 watt, scheda madre Intel HM5S o HM55, non riesco a capirlo, è una micro ATX, ma non dice molto. È anche piccola come scheda madre, magari c'ha due slot solo per la RAM e non puoi fare il dual channel. Poi processore Intel i5-650 mi pare, dual core 3,2 GHz, memoria RAM DDR3 8 GB Kingston, poi c'è scritto 1333 MHz, non so cosa vuol dire, quindi DDR3 8 GB, a disk da un terabyte. Vabbè, masterizzatore, scheda video Intel HD Graphics integrata, scheda video Intel credo integrata, HD Graphics 1920x1200, VGA, DVI, HDMI, le uscite, un'uscita VGA, una DVI, una HDMI. Ehi, lo so, ma quello lì è un i5 vecchio, uno Skylake, non è Cabilake, è quad core di 5, capito? E ci vuole quella scheda che ti ho detto io per andare bene. Come vedi, molte cose io non le so, quindi questo da 300 vedi che è un po' limitato. Poi vabbè, scheda audio 5.1 e basta. Poi vabbè, dice tutte le uscite che ha, per esempio, capito? Quindi una scheda video Intel HD integrata, scheda audio Realtek 5.1 integrata, vedi? Tutto integrato un po'. Certo, le puoi aggiungere, ma... vedi che non ne so molto, anzi non ne so niente. Sì, ma è limitato, Non è come il 5 moderno, va. Eia. Vedi, poi slot, un PCI Express 16x, un PCI Express 1x, sala per la scheda video, immagino. Quella 16x. Come? Quello a 16x è per la scheda video, PCI Express. Eia, vedi, poi le porte USB sono 2.0, tutte 2.0, nemmeno 3.0. Vendono così perché sono limitati. Sono ultimi i PC, però non sono come quelli che ci sono adesso, va. Ce ne sono anche da 450 euro e molto più performanti. Io ho preso questo come modello perché era molto venduto, ce ne sono da 450, quasi 500 euro, solo che c'hanno SSD. Per esempio a me l'SSD mi sta sulle palle, preferirei un hard disk classico, anche se hanno detto che sono veloci, ti dovrei fare un esempio. Allora, l'SSD ci devi mettere solo il sistema operativo e poi ti metti un terabyte di hard disk normale per l'archiviazione. Allora, a me mi è uscito 260 euro di preventivo col 45-60, allora il 45-60 costa 68 euro, la scheda ne costa 75, la RAM 110 e la pasta termica 7 euro, 260 euro, con 260 euro me ne faccio uno moderno, dai, mi buca il coso, che ci sono case, il case è l'alimentatore, devo buscare, e da voi devo dire io che computer mi faccio. Al limite lo facciamo assieme, così vedi come si fa. Vabbè, però se conti tutto, non è che costa solo così. Per contare il case, l'alimentatore, poi quello che hai detto tu, poi il masterizzatore, almeno per leggere i DVD e quelle cose. Poi non lo so uno cosa può preferire. Non lo so. Vabbè, lasciamo stare questo discorso, è troppo lungo, dai. Una volta era più semplice. Adesso, vabbè, DDR3, DDR, boh, una volta era, vabbè, non mi interessa, vabbè, già mi tengo questi, quando si sfasceranno ci penserò, e quando avrò soldi. Infatti, oh, iaia. Ecco, 260 euro non compri un cavolo, poi il case costa 30 euro. Compri un buon alimentatore e sei attenti, con altre 60 euro stai andando, va. Vabbè, la RAM, la scheda audio se la vuoi aggiungere per non metterla integrata, ma credo che integrata vada più che bene, tanto mi, a me non mi interessa di dirci quale scheda 7.1 audio, cosa me ne faccio? A mettermi 7-8 parlanti in casa, no? Ti usi quella integrata. Oh, se vuoi te la do io una scheda audio di quelle PCI Express, che ne ho. C'ho anche porte USB aggiuntive, se te ne servono, PCI Express. Se dici la schedina, ci sono quattro schede, quattro porte USB. Ahia, vabbè. Comunque, per curiosità, io solo per curiosità, per perdere tempo, potrei andare via Booker e dire, vorrei un computer di classe media, un gradino più su della classe media, che se aggiorno il sistema operativo sia ancora abbastanza spinto, abbastanza adeguato, così, per curiosità, e dico cosa voglio, insomma. Vediamo cosa mi dicono, cosa ne esce, capito? Per fare un confronto, una curiosità, oppure chiedere un computer classe media, solo la torre però, poi il monitor va bene, una cosa a parte. E solo la torre, poi me lo fai vedere a me il preventivo, a vedere che vediamo. Io lo so già intanto la cifra che ti sparano. A me non mi ha voluto, quello di computer Fuzuda, non mi ha voluto vendere i pezzi per non assemblarlo io, capito? Perché loro sono assemblatori, assemblano e vendono, capito? Ehi, quanto pensi che sia computer classe media, computer moderno per Windows 10 classe media, quanto credi che sparino? Solo la torre? Non lo so, dipende che processore, che scheda ti metto, che poi ti mettono roba di merda loro, al risparmio vanno e te la fanno pagare una barca di soldi. Tu fatti fare il preventivo e poi vediamo, che cerchiamo i prezzi su internet, e tu capisci che loro ci devono guadagnare, no? È logico che ti caricano qualcosa in più. Eia, vabbè, comunque, come vedi, quelli su internet col modello che ti ho detto era un po' antiquato, me l'hai detto tu. Cioè la RAM ormai va a DDR4, così è. Eia, se ti sto dicendo che è già DDR5 per le schede video. Ho capito, dai. Ho capito. Va bene. Bene, bene. Vabbè, adesso fammi godere quelli, dai. A proposito, caro, io ho una vecchia, mi pare sia del 2001, una vecchia tele, una vecchia cam Dexa, una Dexa di webcam, che fa schifo ai cani e cani. Poi io ho una, come si chiama, Microsoft Live Cam, che però è spinta, tende a mangiare risorse, però se la vedi, se la metti a 320x240 consuma meno, capito? È da provare anche quella, dai, la proviamo con Skype. E infatti io l'ho comprata uguale alla mia moglie, quella che ho io, cazzo, è bellissima quella webcam della HPS, ma cazzo si vede così bene. Guarda, se tu fai il confronto con quella Dexia, vabbè, ma era una, era proprio di risse 320x240, ma l'immagine era un po' orribile, cioè si vedeva lo stesso, ma quella della Microsoft, dell'Life Cam, è già un abisso, è bella, si vede veramente bene, si vede veramente bene, è che è avida di risorse, cioè quella era già una webcam per sistemi almeno per Windows 8, Windows 10, capito? Forse anche Windows 7, però per XP è un po' pesante. Si mangia molte risorse. Ho capito. Se addirittura io ho i dischi tutti SATA, ne ho da un tera, lo sai quanti ne ho? Sì, i dischi sono serial alta, ho notato, quelli almeno di questi di queste offerte internet, serial alta. Poi stanno dando anche questi SSD, ma sono con pochi, tipo 250 giga, un po' piccoli mi sembrano. Vabbè che, cioè, Windows 10 quanto prende già di suo? A voglia se basta, no? Sì, adesso ti dico quanto c'è da me. Sono anche vari programmi che non abbiamo. Nell'altro disco è un razzo con le stesse, perché sono allo stato solido, non hanno parti meccaniche, capito? Però in realtà, cioè, alla fine perché avere un hard disk da un tera? Io te l'ho detto, io quando c'ho un po' di documenti, di video, di cose, metto tutto sull'hard disk esterno, non voglio niente sul computer, serve solo sistema operativo e programmi, alla fine cosa ti rimane di un tera? Boh, a lasciarlo vuoto serve, boh. No, a mettere i programmi, invece di metterli sull'SSD, i programmi li metti sull'altro, capito? Ah, vabbè, io sto ragionando sempre per computer vecchio, io quando c'ho un po' di documenti, di immagini, di video, insomma di roba scaricata, programmi, download, allora metto tutto sull'hard disk esterno. Ma io ho 80 giga di hard disk, capito? Per quello è. Un tera, caspita, ci nuoti dentro, è una cosa allucinante. Ce ne avanzo. Infatti, se non te lo dividi in partizioni da tre partizioni, fai già quello da sera è troppo grande per quel computer, se metti un SSD diventa un razzo. Ma secondo te gli SSD sono maturi o ancora costano troppo e sono poco capienti? Che sono poco capienti sono d'accordo, però ci sono da molto questi SSD. Io infatti avrei voluto un SSD almeno per il sistema operativo. Beh, con quello magari... quante cose, guarda, quante cose. Poi anche il monitor, poco ne ho capito. Questi monitor hanno la VGA, la DVI o l'HDMI di ingresso. E non so cosa sia meglio. Cioè, ha senso avere un monitor a 16 full HD o no? Sì, giù. Ci sono monitor anche a 4K, se per quello. Però con l'HDMI, se hai un monitor che abbia quell'uscita, è molto meglio. Però è per quelli che giocano, ma noi in HDM e cosa, che guardiamo cosa cazzo ce ne facciamo, niente. Vabbè. Ma YouTube certi video ce l'ha a 1080p, in Full HD, YouTube. Magari uno se vuole vedersi un video a tutto in Full HD, lo schermo può andare bene, Full HD, no? Beh certo, ma devo avere la scheda video, chi chissà, se quella che c'è qui non ci arriva, io penso. No, certo non quella che ho io, no. Vabbè, discorso troppo lungo. Quando sarà mi chiederanno cosa vuole lei, cosa deve fare. Io ho detto non devo giocare, passa lì, io non devo giocare assolutamente, però voglio vedermi i film in Full HD, i video YouTube in Full HD, quindi la scheda deve essere adeguata alla scheda video. Vabbè, cazzo, ogni conto che esce a me, guardate ogni conto che mi esce quando quando farò il preventivo. Tanto non lo devi comprare, fate il preventivo così lo consultiamo e vediamo un po' i tre. La scheda video so già che costa un casino di soldi. Ci sono addirittura schede video, cazzo, che sono alimentate, perché quelle PCI Express. La scheda video ci deve mettere anche l'alimentazione, quindi la deve un alimentatore appropriato. Sì. Cioè tu mi hai detto che quelle integrate buone, io potrei anche lasciare un'integrata, ma deve essere un'integrata buona. Ma se non mi fa che le sue Full HD, allora meglio una scheda video aggiunta. Vabbè, non è per adesso, Antonio, te l'ho detto, però sono molto curioso. Sono rimasto indietro di 13 anni. E già allora c'era roba molto più performante lì, della roba mia. E beh, lo credo. Quindi lo consigliamo e vediamo le caratteristiche di questo materiale che ci stanno mettendo loro. E così io ti spiego la situazione com'è. Così mi ridi in faccia. No. Perché io ti faccio vedere qua su internet i trini della roba, io non ho deciso di dire cazzate. Guardiamo, ti faccio vedere il filmato di uno che ti spiega la differenza tra un processore e un altro, tutte queste cose. E ti dici che è uguale all'i3, quello che ti stavo dicendo io, sempre della Intel, un processore Kaby Lake e devi avere la scheda adatta. Praticamente devi avere la scheda che è uguale all'i3, l'i7 e l'i7. Hanno tutti la stessa scheda, 1151 di socket. E vedrai che tu ti puoi mettere il cazzo che vuoi. Tanto la rame ne metti due banchi da 4 e sono 8, più che sufficienti per avere Windows 10, un razzo di RAM. Da 16 sarebbe troppo, vero, la RAM? È troppo sì, se devi usare giochi pesanti servono 16, se no no, è una scheda video adeguata ci vuole, anche se no non è più. Registrato il brecco e siamo sempre là, dai, certe cose servono solo se giochi, esclusivamente se giochi, va bene, ne terrò conto, avanti brecco. Buonasera a tutti, a voi sapete anche il mio comune, come state? Ciao Antu, occhio al perizoma, cappa. Grazie, e tu sei sempre occhi al perisoma. Io non sto dicendo parolacce, niente di simile. Vero Antù? E con lei ti sei sposato, ce l'hai fatto sapere? Quando è che ti sei sposato e non ce l'hai fatto sapere? Vabbè, io la chiamo così, ma non devo fare la mia ragazza. Allora chiama la ragazza, se no è troppo... non va bene chiamare la moglie, capito? Ciao, buonasera a tutti comunque. Mi sto ascoltando, ma riprendo dopo. Ehi, ciao Cla. Cosa? Tutto va bene, sarà la moglie. Vabbè, te l'ho tutto il cuore. Va bene, va bene. Allora facciamo la vicina a lui, alla lui. Quando sarà tua moglie chiamerai tua moglie. Se no ti fa troppo vecchio la cosa. Siamo a ragione, Iara. Se lo dicono che sono 40 anni con mia moglie, quindi a tu. Quando tua moglie chiama la tua moglie, se no ti fate troppo vecchio. Tutto a posto, tanto io sono andato già in pensione, figurati, da un paio di mesi, tutto a posto, tutto in ordine, sta andando tutto per il meglio, beh, se Dio vuole, proseguiamo, per il resto si abbia le luci. Non so, mi sembra c'è Marco Natalino, tutta la serie parlano di computer, siccome a me l'argomento non mi interessa, allora rimango in ascolto. Avanti Marco. Purtroppo non è, capisco niente, sono rimasto indietro di 13 anni, ma già allora c'era roba ben più spinta della mia. Natalino ne sa già qualcosa. Mi sa già un po' guidare. Ciao Antonio, ben entrato dopo tanto, non ti sento da un bel po'. E ho macello sto computer. Comunque io prima di tutto, visto che non ho soldi, soprasiedo. Ma poi io con quei due computer portatile fisso messo a posto, io riesco a navigare. Quindi io finché riuscirò a navigare, finché funzionerà sto qui, userò quelli, poi quando sarà veramente troppo lento da non poter navigare, allora mi farò salvadanaio e mi prenderò un computer nuovo. Capito? E così è. A parte che molti programmi su Windows 10 non girano. Vero Natalino? Guarda, vi devo lasciare, ci sentiamo dopo per pronto a mangiare. Ok, ciao Bombolo, alle prossime. Grazie per essere entrato e per la chiacchierata. Sì, Marco, quei programmi vecchi non andano io. Ma approviamo a mettere Windows 7 in quello fisso. Ok, avanti Marco. Ehi, dimmi una cosa Natalino, io mettendo Windows 7 che vantaggi potrei avere, magari aggiungendo un banco RAM, per il sistema operativo che vantaggi potrei avere? Che è più moderno, ti funziona Chrome, ti funziona tutto. Sì, è troppo vecchio, no? Capito? Puoi mettere l'antivirus che vuoi. Vabbè, ma Chrome guarda che l'onchio mi stanno cominciando a tagliare XP e 7 anche. Loro lo fanno per vendere anche sistemi operativi nuovi, computer nuovi, capito? Tagliano fuori già i più vecchi e mi pare anche il 7 ci sta passando lì. L'ho letto su un coso di informatica. Sono dei parabutti, però è così, lo fanno proprio per... rendono obsolete le cose in modo da vendere nuovi sistemi operativi, nuovi e nuovi computer. Ehi, lo so, politica commerciale. Ehi, sarebbe bello imparare Linux, ma farsi due partizioni in quello da un tera. dalla parte Windows e dalla parte Linux, però bisogna imparare, tu lo sai usare? È una cazzata, è come Windows 10, Windows 7, l'hanno migliorato tantissimo. A parte che di Linux ci sono belle distribuzioni, SUSE, Debian, non ne capisco, non so la differenza tra l'una e l'altra. Un bel di versioni c'è nel mio. Lo so, Ubuntu. Ubuntu, poi ho visto altri nomi che non avevo mai visto. Quando me l'ho messo a posto mi metto Linux su un disco e Windows sull'altro, così uso quello che mi piace e fare a me. Una cosa però mi chiedo, come fa a funzionare Linux con le periferiche? Esistono i driver della scheda video per Linux, della scheda tutto quanto o no? Eia. Ah sì? È segreto. I vantaggi Linux quali sono? Pochi virus, se non niente. Poi più snello come sistema, sbaglio, chieda meno risorse. È più veloce, più tutto. Virus zero. Mai dire mai, mai dire mai. Zero, a chi l'ha già usato Linux andava benissimo. Ti dì la verità che hai hackerato qualcosa con Linux. L'asta verde. Linux è il preferito dagli hacker. Lì fanno tanti giochi belli. Mamma mia, mamma dei turchi. Qua, se usi Linux e ti impari a usarlo, Windows non lo usi più. Lo so. Linux non lo possono vedere i linuxari. Cioè Windows non lo possono vedere i linuxari. Tu i programmi non li paghi, nulla vi sta dicendo, sto gratis. Sì, è tutta roba open source poi, capito? C'è tutto, editor di testo, tutto. Bel mondo, Bisogna applicarsi però, bisogna applicarsi. Comunque delle varie distribuzioni non so cosa cambia. Cosa cambia l'interfaccia grafica? Non lo so. Infatti, poche cose, ma sto dicendo, l'hanno migliorato. Per esempio io Office non lo uso, io uso OpenOffice, così non lo pago. Sì, esatto, c'è OpenOffice, tutti quei programmi sono delle suite, no? C'è praticamente l'editor di testo, poi quello tipo Excel, no? Tutto free, libero, gratis. Io ho il 4.1.3, figurati. Cazzo. Vai. Office, quindi direi fatti. Tutto a pagamento con Windows. Con Windows è a codice chiuso e tutto a pagamento. A caro prezzo. E tu il Mac l'hai mai trattato? No, ma ho visto com'è. No. Mi piace più Linux e Windows 7 o 10. Va bene, fine, dai, non ne parliamo più. Comunque adesso vado al computer, casomai ti lascio con Claudio. Vado al computer, voglio trovare, perché non mi ricordo dove l'ho messo, queste due webcam. Voglio vedere se funziona tutto a posto, se è tutto a posto, capito? Cioè, una è una Dexa, dici proprio tonde, tipo le Logitech, 30.000 lire che l'avevo pagata. È una Microsoft Livecam, molto bella la qualità, molto bella. Ce l'avevo anche usa la Microsoft. Perché tendeva a bloccarmi il sistema. Magna un saccaccio di risorse, Proprio deve essere per Windows 8 forse. Pesa. Pesante. Perché c'ha XP, è quello il problema. Ci mettessi il 7, andavi meglio, tanto è uguale all'XP, non cambia nulla. mai dire mai, Nazarino, mai dire mai. Va bene, Claudio, ci sei? Dai, rimani un po' con Nazarino, che vado a fare altro. Ah, siamo rovinati, perché c'è il computer, siamo rovinati. Ah, la prima volta che avevo fatto un preventivo, io computer non ne avevo nel 2000, no? Avevo fatto un preventivo sempre in via Bucari, no? E avevo chiesto il massimo di tutto, scheda video bella, per giochi, questo, quello, ogni argomento che mi decidi, mamma mia, mamma di turchi, perché io credevo costasse meno, invece poi mi sono molto ridimensionato e me l'avevo fatto, amici me l'avevano fatto, ah? Il primo computer che ho avuto in assoluto. Tu pensa, il primo Pentium che si passa a fare l'ho avuto io, perché tutti avevano il 486 e lo usavo per il packet, lo usavo 3 milioni e sembra che l'avevo pagato. Costava. C'è su questi programmi che ho, addirittura c'è ancora Mirk, IRC, lanciati IRC, ormai non ce ne saranno manco più server, forse. Devo controllare, mamma mia che roba vecchia. Era bella mi lanciati IRC, diversa dalle normali chat. È il telefono ETAX, il micro TAC Elite, mi sembra che fosse. 1500 euro con viva voce per la macchina, antenne e tutte cose. Così te li sei mangiati tutti i soldi, ah? Mi sentite l'hai? No, non ho sentito, cosa ha detto? Ho detto che sta compensando il peccato. Chissà quanti soldi ha speso mi da qui a 30 anni Natalino, ah, si è data la bella vita. Auguro a tutti a divertirsi la metà di quello che mi sono divertito io, non dico altro. Minchia, usando la minchia, vabbè, già hai capito, dai. Vieni. Bene, bene, comunque il primo computer è stata una mezza inchiappettata, fatto da amici, ma aveva gravi conflitti, di tutto e di più. Poi quel Windows 98 era maledetto, faceva sempre uscire quelle schermate blu, ma sai quanto sangue ho sputato io col 98? Sì, non era stabile. No, ma proprio anche gravi, cioè, quando uno, per esempio in via Bucari ti danno configurazioni di computer già collaudate, no? Ti danno delle combinazioni di tutto, di periferiche tutte collaudate, in modo che non abbiano conflitti l'uno con l'altro. Invece lì il primo era un disastro. E a me lo dico. Non ti ricominci la nuova periferica e ti dovevi ammazzare, cazzo. Questo Windows 10 non hai bisogno manco di giocarti di driver, la TTS riconosce tutto. Ah sì? E allora, è anche Windows 7, ce li ha lui i driver. Bello! Infatti, perché ti volevo mettere Windows 7? Al limite leggero, il più leggero che c'è, tanto ce li ho tutti. Proprio per toglierti XP, perché ce l'aveva mia moglie, gli ho messo nel computer di cacca, gli avevo messo il 7 ed è di lusso. Adesso è più veloce del mio quello che ha lì. Eia, eia. Windows 7. Era stabile quello, sì. Qual era quello brutto, quella cagata, cos'era? Millennium? Mamma mia! 98, Millennium, Bucci, 2000. Tu pensa che programmavamo in DOS, quei programmi di packet. C'erano discorsi in UHF dalle 3 del pomeriggio fino a mezzanotte. come ce li hai questi sistemi operativi? Cioè, se me lo installi, come ce l'hai tu? Non lo puoi aggiornare, cos'è? Pirata, copia pirata? No, io te lo do che funziona. No, che si possa aggiornare anche, perché io quando avevo preso il computer li ho presi rigorosamente, l'assemblato col sistema operativo in formato OM, che compri il... avevo il CD di installazione, mi proprio, con tanto di codice e tutto regolare, in modo da poterlo aggiornare. Perché ti avevano fatto pagare la licenza? Non c'è problema. Tu mi dici quando lo vuoi fare, lo vemo, e poi ti fai fare tutti gli aggiornamenti, che ne ha un casino da fare. Ehi, non mi basterà la rischio. Vabbè, comunque Natale, conta che la licenza OM costa poco, mi. Quando vuoi comprare invece il disco con Windows da solo ti costa un bel, ma quando prendi un computer e licenza OM lo paghi meno, molto meno. Perché la licenza OM è per installatori, hai capito? Eia. Ecco perché ti sto dicendo che quello che è attivato, quello di mia moglie è attivato Windows 10, c'è anche il 7 in un altro punto. Claudio sicuramente ha chiuso, dai. C'avevo gente oppure si è rotto le palle delle discussioni nostre. E oppure è andato a portare il cane. E anche. E molti non si mettono problemi, comprano un computer, boom, senza stare a sapere cosa c'è dentro. Un computer, un buon computer, boom. E allora? Sono quattro score che costano due soldi. Io proprio non ho voglia di assemblarmelo, me lo compro lì, un quad core, e funziona. Al limite me lo posso migliorare io, nel senso che posso aggiungere RAM, poi mi metto un SSD. Sistema operativo me lo metto lì e così è un razzo, già è quasi core, figurati con l'SSD cosa può essere. Beh sì, la disca fa il movimento, si può rompere fisicamente, l'SSD almeno è, non ci sono fatti movimento, capito? Ma tutto un sistema, è come una chiavetta, capito? Ma è un modulo in memoria diretta proprio. Infatti. E adesso per esempio spesso sono da 250 giga, poi faranno 500, da 1 terabyte, allora saranno migliori, dai. E infatti, ma te ne basta anche uno da 120 o da 100 o da 250, già ci sono, costeranno, come costano molto. Adesso vai su internet e vedi quanto costa un SSD. Prima qui acquistavano un bel, perché ci sono da un bel questi SSD, non è che ci sono da poco. No? Ma sai com'è, ancora non hanno sostituito appieno gli hard disk. Oh, che non ne sta piazzando nessuno. Ci sono certi case che non hanno neanche il coso, come si chiama, il posto per mettere il lettore DVD, che tutto funziona a chiavette USB. No, il DVD lo voglio, magari metti che compri un programma e me lo danno in DVD o in CD, e come lo installo? Meglio aperto. Sì, addirittura, ma... Ehi, ma tu c'hai già il buco nel case, a quei case, il motore, manca addirittura lo spazio per metterlo, non lo puoi punire. Non puoi mettere gli hard disk, quelli tradizionali, devi mettere gli SSD per forza, anche dietro li mettono gli SSD, figurati. Eiaia. Ui che freddo, chi c'è in via Merri? Riesci a vedere? A Pomponio, in sé, quando mai? Vive di PMR, Pomponio. Io entriamo, la facciamo a pezzi. No, vabbè, comunque la storia, a parte gli scherzi, adesso vado a cercare queste due webcam che non so che fine abbiano fatto. Quando avevo fatto un repulisti lì, avevo pigliato delle buste e ci avevo messo tutto dentro. E quindi vado a cercarle, dai. Così riesco a recuperare Skype, forse. Perché non so nemmeno se devo mettere la password, non mi ricordo manco più il mio nome, che nome ho messo, che password ho messo, nulla mi ricordo. E ti fai un altro account, molto ci vuole, se non ti ricordi la situazione metti un altro account e via, te lo scrivi su un pezzo di carta. Poi devo cercare il microfono anche, il microfono, capito, per parlare. Purtroppo, vabbè, anche le cuffie ci ho volendo, cuffie con microfono, ma... Vabbè, dai, ci sentiamo, Natalia. Ci sentiamo domani, ok? Ok, Marta, va. La mia telecamera c'ha anche il microfono incorporato. Eia, e la live cam, pare ce l'abbia. Mica c'è anche Luca Del Monte, mi, in PMR, vai lì. Ciao, Natalia, ciao. Ciao, ciao. Io, Luca. Magari Luca. No, ci ho capito, ma sto chiamando Luca. Luca Del Monte. Arrivo quando scala tutti, ma loro non sanno quanti watt sto usando. Tutti i watt sto usando. Ma cosa c'è oggi? Ah, salita, qui mica facciamo i contributi dell'USL, mica il canale.